funzionano con quelle antenne marine, a costruirne una per metterla senza che abbia bisogno di massa e di niente. Un attimo, questo io vorrei verticare un secondo. Minchia, vabbè. Io sono assente da qualche giorno, quindi non ne so niente. Ti si è bruciato l'elementatore. Che sfiga micidiale. Stavo parlando, no, niente, scappato, lascia perdere. Un'azione incomprensibile, segnale è sceso a 9 addirittura qua, figurati che possono copiare gli altri. Segnale incomprensibile, non so con cosa sta lamentando queste portate, lascia perdere. Passo. Come? Ok, Salvatore, ma di metterti di nuovo in riga come di qualche giorno fa, cioè la settimana scorsa quando ci facevamo. Adesso ho problemi di riscaldamento del sederino, poi ci dovevi mandare anche la foto dell'antenna, lì eravamo rimasti, e invece mi sa che invece c'è stato qualche problemino in più. Ok, voi. Vedi Vera, vedi tu, Vera lì, Salvatore lì, organizzati là. Mamma mia, atta lì. Ehi, mi sparisce, un po' così è la situazione. Ci fa un cuore a cavolo, lo sta alimentando sotto. Ho capito che saranno portati da adesso. Bisogna aver capito che saranno portati. Oh, signor. Risposto, tia. A chi? No, assolutamente. Ma mi devono rispondere là, se no va a fondo pure portatile. E probabilmente scarica batterie del telefonino che ci ha attaccato sopra. Se no, alternata micidiale. Sì, infatti. Lascia perdere se gli fai danno, Salvato, se ne stai ascoltando. No, Salvato, non trasmettere, Salvatore, non trasmettere, anche se tu a noi ci ascolti, tu non trasmettere, perché un'azione strappata è malmessa, veramente. Non so come puoi farci, come puoi comunicarci che cavolo di in che condizione sei. Ho capito che sei un portatile che sta alimentando con chissà che cosa, buh. Ma vabbè, siamo qua in radio. Sai per caso la DSL, sai per caso internet. Diamo un contatto, vediamo magari se c'è il problema se c'è la radio. No, vabbè, vedrà lui. E poi andiamo a lì. Perché la gara, certo che sono, ma io non sto facendo niente, ma l'ha detto qualche altro, ora più proprio la storia che ha bruciato l'alimentatore. Sai che ti devo dire? Io non sono meno di zero. Sono meno di zero, penso. Allora, ma che vuoi che ti dica? L'ho trovato, avevi, come mai si dava 46, a me 44 e 67 l'impedenza. No, Natali, sono andato a pranzare, veramente. Sono andato a pranzare. A pranzare e poi ho fatto chiamata dopo, c'è più nessuno, quindi ho preso, spendo tutto, ho fatto 30 minuti di stand by per raffreddarmi un pochettino, qui il fiatore ha cominciato a lavorare. Se ti vedi tutti stavate andando a Nanna. Sì, infatti. E i lavori non ha già dormito nulla. Vabbè, lasciamo verde, domani me ne devo alzare presto a proposito, se devo andare se devo andare a consegnare quella domanda che mi preme di più. Io direi senza di lei non si fa. Andrea. E che sto bip? Sono io, Coccolino. Minchia, associate la radio. Ciao. Non ho capito chi sei. Buonasera a tutti. Signor Gianni Doppio Rum. Ciao. Oh, signor. Ciao, Gianni. Il BIP ha conosciuto, segnale conosciuto, però la radio non c'era. Buonasera. Compagnia di Natalino, di Salvatore, si sta pelagando in cose abominevoli. Avanti Natalino. Ciao già, ben entrato, buonasera. Buonasera Natalino, buonasera Salvatore, buonasera a tutti, anche vi ascolto. Allora ragazzi, come sta buono? Subito, come salvare? Perché hanno incentrato Bombolino, va a fanguare a lui. Non l'hai sentito tu per caso già? È sul 10. Ah, sul 10. Cavolo. Cavagliere. Salvatore non l'ho ancora sentito. Avanti Salvatore. No, c'ha seri problemi di alimentazione, gli si è fuso l'alimentatore, non so come, e sta usando un portatile, non so come, una cosa ambigua, è meglio che lo moduli, è meglio che schizzi, non so, non so ce la porta. Basta prendersi un switching così almeno risolto. Bisogna capire, sta riiniziando, non iniziando ma riiniziando, deve tenerci un po' la mano, non ho capito come stavo l'ho fatto a bruciare l'alimentatore, boh. Stava dicendo che aveva detto Mancalino, che Mancalino ha detto che non ha parlato con lui, chissà che cavolo l'ha detto. Ma magari c'era qualche fusibile, lui pensa che c'era l'alimentatore bruciato, magari qualche fusibile che in realtà, nella vetrina di comprare il fisico. Ma adesso io, Gianni, io adesso, in questo momento, Salvatore l'abbiamo sentito da 4-5 giorni, quindi non è solo niente. Se ne sei di più Natalino, non so, l'altro no, è stato messo io. Con me non ci ha parlato, io non lo sapevo che avevo bruciato l'alimentatore. Beh, l'ha detto chissà chi l'ha detto, però a noi non ci hanno riferito niente, quindi niente sappiamo. Vabbè, io non l'ho mai sentito, so che è entrato, però non sono mai riuscito a sentirlo. Vabbè, capiterà l'occasione, va. Vabbè, stasera molti siete. Stasera molti siamo, siamo io e Natalino e Salvatore Malmesso, ergo siamo io e Natalino che stiamo facendo quattro chiacchiere così, perse nel nulla. Ho detto morti, stasera eravamo più allegri. Boh Gianni, ma noi c'è qualche cosa su qualche altro canale che cazzo non so. Che c'è su 10. Ok, si sente splatter. No, sto facendo un'ipotesi. Splatter, ma quando prendo lo splatter io, se devo prendere lo splatter per un provvedimento, metto un filtro. No, penso che stiamo modulando su altri canali, che adesso se non sono su 21 saranno su quell'altro canale, 4, 5, che ne so. Aspetta, spazzolata. Non sto cercando nessuno. A me c'è una tua fucking nuda, perché sei 215 e basta avanti. Ti va bene qua. Non c'è problema. Io giro da una parte all'altra ogni tanto. Trovo tutti. Un po' tutti sono amici, quindi vado un po' da tutte le parti. Santa House. Eia, Nara. Cosa stai combinando? A dirti la verità, mi sto preparando per mettermi a letto perché domani me ne devo alzare presto e se mi sta venendo la piocco. Mi sta venendo. Ok. Dammi voglia quando va a doppiarti, così prendo, spengo tutto, no, spengo un tutto un po' doppiare, un po' di frequenza fino a mezzanotte, un'altra ma una spappolata, vedo che c'è, così non perdo tempo su questo panale vuoto. Dunque sono andato a vederlo a quel sito, Adriano, quello grande modulatore. E vai, che hai trovato? Io l'ultima volta ci sono andato, ma sono un paio di mesi fa, novità ci sono. E sentito palla di fuoco, tutti quei nominati strani, novità, si sente in queste o che fanno? Che fanno i camionisti come la subito? Gobo gobo! ma... quello che mi sono una cosa interessante erano i video. I video che ci sono in rete, mentre ho visto addirittura un incidente che era una cosa abominevole, minchia. Mi è venuta una pelle d'oca. Vero? No, io ho sentito, ho visto solo l'apparato che hanno fatto vedere, poi c'era tutta una cosa distorta, adesso è che muova la telecamera in un modo strano, sembrava che ci sia potuto stare il cane. No, per il mese fa ho visto un incidente, è stato filmato nell'archivio, una cosa abominevole. Un cavolo di macchina per ha fatto uscire fuori l'articolato e quello che aveva addirittura la cam che ne aveva registrato tutto e l'ha messo lì sul sito. Minchia, brividi. Mamma mia, se non faccio se ti decidi te ne dico. Raga, ma che vedi tutti i colori, ma se andare su YouTube ce ne sono gli incidenti stradali, metti li vedi tutti i colori. Hai voglia che ne vedi. Se vedi tutti gli incidenti generici ti metti le mani nei capelli e mi devo vedere, va, e mi devo anche quattro numero di persona. Poi ce ne ho visto troppi, quindi tra noi le abitudini ce le ho fatte, ma diciamo che quando intervieni sei freddo, ma poi se ci pensi, ui. Oh yeah, già ne lascia perdere, che quando vanno nella torce blu che andavano a cattare la gente a pezzi, ce l'ho fatta per un anno. La croce blu, poi non sono andato perché era una cosa abominevole. Io facevo il notturno di notte dalla una fino alla mattina, cose abominevoli. Alla croce blu sei stato? Ecco, anche io tanti anni. No, io sono un anno. Chi c'era? Quando ci già c'era. Guarda, la croce blu a quel tempo lì era via Pasquale, no, non via Pasquale esattamente, la via di Pasquale, dove c'è la banca? E via Don Piga, là dove c'era il cinema Rex? Sì, via Don Piga. Mi sa che c'è ancora, no, non lo so. No, la croce blu adesso è tutta un'altra cosa, cioè si chiama croce blu ma non è più quella di una volta. Ho preso solo il nuovo e basta. Ma dove vatte quando c'eri tu? Vabbè, a quei tempi era nel 1992, avevo uno scassone, no, più di uno, però veniva usato male, eccetera, eccetera, anche per quello che... No, niente, poi non mi piaceva neanche l'ambiente, perché non è come andato? 2.38 c'era così. Eh sì, esattamente 2.38. Ma il mezzo senza manutenzione, se ne sottovano tutte le palle. E ti vuoi pensare che qui ti era tutto volontariato e non è come adesso. Conosciuto anch'io il 2.38, quindi era il periodo che c'era anch'io. C'era Natalino, c'ero io, Sandro Gulagi. Che ne so se lo ricordo. Signori, io vi saluto e me ne vado in buon ordine. Ci sentiamo domani, là, che me ne devo alzare presto domani mattina e c'è la Biocco in corso. Alle prossime, là. Mi ha fatto piacere ascoltarvi. Ci sentiamo alle prossime, là. Ciao, ciao Natali, buonanotte. Ciao anche Klaus, ci sentiamo alle prossime. Buonanotte e buona giornata per domani. Sarà meglio. Ciao, comunque sicuramente tu c'eri negli anni che c'ero anche io. Chi c'era? Faccio un po' di nomi, Pinasecchi, Adriano, Tosini. Allora, dunque. C'erano dei turni. Io c'ero solo di notte, dalla mezzanotte in poi. Non so che turni facevi tu, se no di mattina o notturne. Io ho fatto l'uno e l'altro, facevo mattina, a volte facevo, la domenica facevo dalle 8 di mattina fino alle 8 di sera. No, io ho sempre fatto solo notturne. Notturne chi c'era? C'era nessuno. C'era un tossico che si strafaceva, non capiva la mazza. E no comment, sono durato un anno, ho cercato di fare del mio meglio, a prescindere da chi c'era in quegli orari, però poi mi sono stufato e me sono andato e sinceramente sono entrato lì con il casco piacere di fare volontariato, però l'ambiente mi ha schifato e me ne sono andato subito. È buono, tu spero che ricordo. Se non è quell'obiettore che ci avevamo, che stavamo cercando di redimere. Lascia perdere, sarebbe. C'era gente che lasciava la monarca piena nel siringhe, no comment. Non l'ho conosciuta per quei tempi, che forse non era lo stesso periodo. Beh, ci sono stati tanti anni, non sono stato, non so, ci sono stato 6-7 anni, non c'è dubbio. No, io sono vissuto un anno solo, circa un anno, no, trovavo l'ambulanza piena di siringhe, cioè non bastava che dovevamo andare di notte, proprio di notte vuol dire dalla mezzanotte a farsi tutta la nottata completa fino alla mattina turno era quello. E ci trovassi insomma il mezzo pieno delle portate che facevano anche loro, no niente. Me ne sono andato via. Mi piaceva. Anche se era una cosa bella, non so bene, stiamo parlando del 1990, sì, 91-92, sì, era quello, era quello lì. 91-92, e si andava come si poteva, ognuno faceva quello che poteva, c'erano quelli che gli interessava, che erano interessati a quello che facevano e quelli che invece facevano quello di Palermo. Vedo. Adriano, in quel periodo c'era anch'io, perché io mi ricordo che nell'89 mi sono sposato, eravamo già alla Croce Viva quando eravamo fidanzati con mia moglie, quindi eravamo anche noi in quel periodo, però c'era Domenico che faceva il turno, Domenico Testoni, Battista, mi ricordo quelli che facevano il notturno lì. Poi ci ho riprovato nel 93, ci ho fatto. Ho fatto a te, ho visto un ambiente strano. No comment. Nella vacanza ci ho riprovato. L'entrata è l'uscita. E poi ho provato alla croce bianca. C'è bianca l'ho quando la cavalca via lì. Nel capo. Ma che l'entrata è uscita, non comment. Lì c'era un medico, il medici B c'era, no? C'era Gianfranco Battimora, Kawasaki, c'era un sacco di CB. Ehi, c'era, diciamo, cancellato dalla memoria, Marameo, no, l'ho proprio cancellato dalla memoria, che mi devo non ricordarcelo, un CB stesso, che entrava in quegli anni lì. Idem, anche lui riempiva le ambulanze di siringhe. Verità. Vedi, queste cose non ho mai saputo la verità, però dopo tanti anni. Dopodiché era entrato un gruppetto che non mi piaceva e me ne ero andato. Io del direttivo, non volevo sapere. Era un gruppo che si era andato in un'altra associazione, è entrato da noi, ma per carità di Dio, meglio niente. Lo buttate fuori a loro, oppure me ne vado io. Allora la profetta che mi ha perso e mi sono andato io. Ma era abbastanza gettonato. Come me ne sono andato da lì, mi hanno preso all'Avis. Dall'Avis sono andato al CISO, quindi il CISO ci sono tuttora, dopo 14 anni ci sono ancora. Sì, confermo Gianni, confermo. Ma te lo sapevo, non avevo se può far scadere una bestia, non so che vuoi temperatura c'è da quelle parti. No, alla fine mi sono rotto le palle, mi fa bene che a quei tempi ero un ragazzino, avevo 20, dai 20 ai 23 anni. Allora certe cose troppo le palle, perché tu vai lì a fare volontariato e poi ti trovi che sono proprio volontari che ne approfittano per fare portate abominevoli. Da quella volta ho sospeso col volontariato e basta, tutto lì. Mi dispiace però, mi dispiace perché ho provato anche proprio pochi giorni a protezione civile, però minchia c'era quell'altro strofo della croce bianca. Poi ho trovato gente seria, la verità, quando sono andato io, quando sono entrato, ho trovato gente seria, poi quel gruppetto lì non mi è piaciuto, sicuramente ti sta rivolgendo a quel gruppo lì. Non lo so se Bruno, Gianni, Maridella, quella del progetto lì. Sono contentissimo. Sì, c'è Cuccia, sì. Guarda, la televisione alta definizione. C'è Cuccia. Non lo so, Salvino, sto guardando la televisione, micidiale. Oh, mi stava dicendo mia moglie che questa tipa salda mi ha fatto detto un alieno. Dove Gianni? Una tipa salda ha partorito un alieno. Gianni, attrici dopo un pochettino di... Gianni, va andando, Gianni. Tu sei detto al televisore. Ma la posso chiamare una cortesia? Ragazzi, ma la posso chiamare una cortesia? Va a dormire, va. No, ma ti rispetti da una cortesia, non mi sta ascoltando. Mi sta ascoltando, sto guardando anche la televisione. Il bip lo potete levare. Se non so cosa ti spingere. Io mi sono levato, io ho fatto. No, salvi, io sono là. Allora levate il bip, mi piace. Che ti ridurlo, conosce, ma quello che vuole altro, Antonio di che? Da Antonio, lo vedi nel caso, lo chiamo Antonio, buh. E mi ha dato un bambino, eh. Vabbè, dai, io vi saluto tutti dove sto andando, dai. Ci sentiamo, ragazzi, buonanotte. E ok, Gianni, per continuare questo, però, intanto Abruzzo. Che me ne prendo un altro momento. Ciao Gianni, buona serata. Felix per Maiden. Ciao, ciao a tutti da video. Ciao video, ammazzati in varia.